Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Il 70% degli europei vorrebbe l'elezione diretta del presidente della Commissione. Vede come prioritari i temi della lotta alla disoccupazione, alle ineguaglianze sociali, al debito pubblico. Questo emerge dal sondaggio Eurobarometro Parlamento Europeo in vista delle elezioni 2014 su un campione di oltre 26.000 persone intervistate a giugno. Si concluderà entro la fine dell'anno l'indagine del Parlamento europeo su Prisma, il programma di spionaggio online americano. Se ne sta occupando da luglio la Commissione delle Libertà Civili. Va cercato il giusto equilibrio tra sicurezza e protezione della libertà individuale, dice l'europarlamentare britannico Claude Morales. Quello che è successo con gli Stati Uniti ha riguardato molti paesi occidentali, è stato uno shock per molti cittadini europei. Quello che sta accadendo nel Parlamento europeo è molto importante perché siamo l'unico Parlamento internazionale che ha una legislazione sulla protezione dei dati. Noi rappresentiamo 28 paesi, il principale blocco economico nel mondo. Siamo gli unici che stanno cercando di controllare Internet attraverso la normativa sulla protezione dei dati. Per la prima volta stiamo cercando di dare un senso alle accuse di spionaggio tra noi e gli Stati Uniti, ma anche alla questione del presunto uso di Prisma da parte degli Stati Uniti per rendere almeno trasparente questo movimento di dati e capire se sia sproporzionato rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Dobbiamo poter trovare il giusto equilibrio tra sicurezza da un lato e libertà individuale dall'altro. Settembre, anche tempo di vendemmia, l'Europa scende in campo a difesa dei suoi vini. Il servizio. Bruxelles va alla guerra per difendere anche online i vini di qualità europei, tra cui quelli italiani. Ad annunciarlo il commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos, il pomo della discordia riguarda la promozione su internet dei prodotti vinicoli. Da una parte ci sarebbero società interessate ad acquisire i nuovi domini web Van e Wine proposti dall'organismo mondiale ICAN, con l'obiettivo di aprire siti dedicati ai vini più pregiati, quali il Chianti o lo Champagne, e venderli al miglior offerente, un po' come avvenne agli albori dell'era web, quando molte società dovettero pagare oro per rientrare in possesso dei propri siti registrati da soggetti estranei. Dall'altra parte ovviamente ci sono i produttori di vino. Ciolos ha annunciato che seguirà da vicino la vicenda insieme ai colleghi Nili Cruz per l'agenda digitale e Michel Barnier per il mercato interno. Cerchiamo, ha spiegato il commissario europeo, di mobilitare tutte le risorse politiche e tecniche a nostra disposizione. Dal mio punto di vista, ha concluso Ciolos, l'estensione dei domini web deve tenere conto che l'Unione Europea dispone di un sistema di indicazioni geografiche che è un diritto di proprietà intellettuale. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E infine torniamo a Mantova con la nostra inviata Alessandra Tedesco. Infatti il Festival della Letteratura parla anche europeo. La Direzione Generale Cultura infatti sostiene un progetto per dar voce ai giovani scrittori dell'Unione. Alessandra. Eh sì, il progetto si chiama Scritture Giovani. L'iniziativa è nata nel 2002 grazie anche al sostegno, come dicevi tu, dell'Unione Europea. L'obiettivo è far conoscere i giovani scrittori nei diversi paesi dell'Unione. Ogni anno vengono selezionati 4 autori di 4 lingue diverse: inglese, italiano, tedesco e fiammingo. Ognuno scrive un racconto su un tema. Quest'anno era Gerusalemme e questo racconto viene pubblicato in un'antologia nelle diverse lingue. I 4 autori partecipano poi al Telegraph in Gran Bretagna e anche ad un altro festival letterario a Berlino, oltre naturalmente a Mantova. Questo è un modo per far conoscere al grande pubblico europeo i propri libri, come ci spiega la rappresentante italiana di quest'anno, Laura Fidaleo. C'è una probabilità maggiore di conoscenza, è un principio di realtà, anche se la possibilità non è ancora realtà. Ma naturalmente bisogna insistere. Grazie dunque alla nostra Fidaleo, alla nostra Alessandra Tedesco, che ci ha raccontato in questo frammento anche la speranza degli scrittori. Per Europa 24 è tutto. L'appuntamento torna lunedì prossimo intorno alle 13.15. Buon fine settimana. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.